Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarezzi. E buon lunedì a tutti, buon lunedì da Caffè Paglia, trasmissione particolarmente carica oggi, vedete, è stato un bellissimo fine settimana sportivo. Un saluto da Vico da questa parte del vetro. Vabbè, adesso non vorrei fare tutta la trasmissione così. Un saluto a tutti, buon lunedì, c'è un Caffè Paglia da portare avanti e qualcosina dobbiamo inventarcela. Per fortuna sentite già ridere l'unico che ha vinto in questo fine settimana, perché il nostro Simone ha riportato con la sua San Benedettese i tre punti. Raga, buon dì, anche se mi rendo conto che noi non vincevamo da 4 ottobre. C'è qualcosa che comunque... Però raga... Che brutti che siete. Grazie, ne parliamo. Ti ringrazio. Dici proprio noi due, io e Fio, qua di fianco a me. No, siete uomini bellissimi. Mi sembrava bello. Ci avete presente il meme di quando Bart, il giorno più brutto della mia vita? Fino ad ora. Mi sembra che siate in quel periodo. Siamo poi in quel periodo, vedremo, ne parleremo ovviamente durante questa prima parte. Non l'abbiamo ancora salutato, la stella della trasmissione. La salutiamo? Vai. Ciao Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, siamo un po' giù di voce perché purtroppo tra le cose da sì abbiamo preso l'acqua ieri. Abbiamo anche preso l'acqua comunque, va bene. E siamo arrivati fin qui con i mezzi stamattina. E oggi tutti, attenzione, tanti oggi in autobus. Stiamo facendo degli esperimenti. Per provare a cambiare la cabala di questo momento negativo per la squadra del Bologna, si può dire crisi. In casa sono 5 partite, 4 sconfitte e un pareggio. Il Fortino Dall'Ara era il luogo dove nessuno era riuscito a passare. Ricordate il Napoli che venne preso a pallate quest'anno, questa stagione, cioè sempre la stessa stagione. So che non sembra reale, ma esattamente non sembra reale. L'ultima volta c'era il Napoli preso a pallate, al Dall'Ara. Evidentemente qualcosa non sta girando nel verso giusto. Proveremo a raccontarlo in questa giornata. 333 180 94 94 per i vostri messaggi. Noi ci buttiamo già dentro alla trasmissione, che partiva già con una vittoria, nel senso che infrasettimanale c'è stato il recupero della partita saltata per la Supercoppa contro il Verona, un Bologna che veniva dal pareggio all'ultimo secondo con il Como nella partita precedente. Una prestazione che aveva dato segnali molto incoraggianti, raccontava di una squadra viva e di tanta voglia di giocare a pallone. Esatto, era tornato un po' quel Bologna che conoscevamo. Col Verona è andata bene, anche se qualche problema c'è stato tra due, con qualche patema d'animo di troppo probabilmente, per come era andata la partita. 3 gol bellissimi del Bologna, e questa che non vorrei diventasse un'abitudine, se non lo è già diventata, discreta attitudine a farci gol da soli. Anche un po' questa, sì, era evidente all'interno della partita col Verona. Si va in una partita importante, una partita che arriva dopo la morte del presidente della Fiorentina. Questo in qualcosa ha cambiato forse il clima e in particolar modo le energie dei giocatori della Viola. Una partita che poteva, all'inizio sembrava potesse essere rinviata, a questo punto con i calendari delle due squadre sarebbe arrivata all'ultima giornata probabilmente il recupero potenziale. Sono entrambe in Coppa, in Conference, in Europa League, quindi insomma non sarebbe stato facile sicuramente trovare uno spazio per giocarla. La Fiorentina da subito ha detto: noi vogliamo giocare, quindi da quello è stato... Pare sia stata una decisione del presidente stesso, da quello che ho capito, decisione della famiglia che ha voluto famiglia, così, che esatto, non volesse bloccare la situazione. E c'è stata appunto questa Fiorentina che aveva necessità di punti assoluti, devo dire che ne avevamo parlato, ha una squadra che non è da ultima posizione e che quella possibile salvezza, è vero che nessuno era riuscito a farla, ma dopo aver perso, dopo non aver vinto per 13-14 partite, però nessuno era così forte come la Fiorentina, di quelle che non avevano vinto quelle 12-13 partite prima nella storia. Quindi già adesso, in questo momento, credo sia pari a Lecce, quindi si giocherebbe il punto a punto per l'eventuale salvezza, e quindi insomma non è più così lontana la possibile salvezza. È ovvio che il Bologna dà 4 punti alla Fiorentina in 2 partite, clamoroso, già i 2 che avevamo perso all'andata facevano male, questi 3 sicuramente lo fanno di più. La cosa strana è che arriva in un momento, appunto dopo Verona, in cui sembra che la squadra abbia preso la strada giusta, addirittura l'italiano, il turnoverista italiano dice: questi hanno giocato bene, e li confermo quasi tutti. Mamma che gol, scusate, stavo riguardando le immagini. Mamma mia, ragazzi. Appunto la squadra è quasi la stessa di Verona. Viene cambiato Casale, Vitic entra Casale nel riscaldamento, se no avrebbe giocato Vitic, e viene schierato Cambiaghi, che l'unico cambio, cui viene accorciata dopo il ricorso la squalifica per il rosso rimediato inspiegabilmente rimediato contro il Como, al posto di un buonissimo visto a Verona, Benji Dominguez. È vero, Dominguez, una delle partite migliori per quanto riguarda questa stagione, che non è stata una stagione brillantissima per Dominguez a Verona. L'unico proprio cambio viene da lui, da Cambiaghi, appunto, che poteva giocare, nel senso che non era più squalificato. È ovvio che le cose però non vanno bene, tant'è che alla fine del primo tempo sono 4 le sostituzioni, insomma, non capita spesso. Unico modo possibile per rimediare a quel primo tempo regalato completamente agli ospiti. Primo tempo veramente indegno, tra l'altro con 2 gol fotocopia, uno annullato, cioè 2 gol molto simili, diciamo così, uno annullato, ti annullano un gol e dopo, subito dopo, lo riprendi praticamente uguale, e questo non è una cosa positiva. Posso una cosa veloce sul primo gol di cui parlava, annullato, ok, l'hanno annullato, è andata bene, però è proprio brutto avveresti se fossi stato Vincenzo Italiano, perché non c'è nulla di quello che deve fare un blocco difensivo dietro, non c'è nulla, sono lentissimi, sono larghissimi sia tra di loro che tra i reparti. Il gol dell'Atalanta che abbiamo visto live a 2 gradi, lo voglio ricordare ancora, maledetti, è uguale, non so se ve lo ricordate, c'è De Ketelaere che scende sulla destra e poi la mette su, la mette dietro, diciamo, centro area, il pallone filtra per tutta l'area, è identico, è lo stesso, uguale, solo che questo viene annullato e quello dell'Atalanta di Krstović va dentro, e sono gol che prendi, continui a prendere praticamente lo stesso gol, sei completamente in difesa quando ti attaccano sugli esterni, De Ketelaere e la Fiorentina sono liberi di guadagnare, guarda qua, 20, 30, 40 metri così, senza tossire, non c'è nessun tipo di protezione al centro, e la cosa che mi fa brutto è che a me sembra che questo sia un enorme problema proprio fisico, cioè mi sembra che ci sia proprio un buco nella preparazione grosso, perché non stati in piedi, molto lenti anche nel recupero, quando cerchi di tornare in giro per cercare di attappare l'errore tattico, non so cosa sia successo, guarda qua, guarda le bucature, stiamo riguardando intanto le immagini, sono abbastanza evidenti dei problemi soprattutto nel primo tempo. Da un punto di vista fisico sicuramente la squadra non è al top fisico, ha avuto, diciamo, ne avevamo parlato nel corso della stagione, ci sono stati molti infortuni a giocatori in forma, questo è una roba un po' particolare di questi, che erano nel pieno della forma e si infortunavano. È capitato con Bernardeschi, è capitato con altri giocatori. Beh, 2 clavicole in stagione penso che sia una roba unica nello sport professionistico, rugby compreso, cioè è clamoroso. Sì, abbastanza strano, e appunto con una serie di infortuni in particolarmente in alcune zone del campo che hanno portato poi a giocare sempre gli stessi, e quindi probabilmente adesso iniziano ad avere a essere un po' in riserva di energia quelli che hanno giocato, e che quelli nuovi non riescono a subentrare. Ci sono alcuni giocatori, e ne dico 2 che sono i miei preferiti della squadra, che stanno giocando molto al di sotto delle loro caratteristiche, uno è Odegaard e l'altro è Ferguson. sono due giocatori che comunque sono sicuramente questa prima fase del campionato insufficienti di utilizzo. Vabbè, due percorsi diversi, due post operatori anche molto diversi, perché entrambi hanno subito operazioni a seguito di infortuni di entità non paragonabile, con anche una un recupero molto diverso. Odgaard ha fatto anche dei bellissimi gol, Ferguson invece fatica proprio a trovare la sua identità nel gioco, sembra che abbia paura che non sia a suo agio nel giocare, indipendentemente da quale ruolo degli interni di centrocampo copra. Non è solo un problema fisico in quel caso, perché comunque Ferguson corre, ad esempio con l'Atalanta è stato quello che ha fatto più chilometri, e non l'avrei detto guardando la partita, non me ne ero reso conto. Quindi diciamo non è solo un problema fisico, è anche un problema proprio di posizionamento. È ovvio che lui stava studiando molto il lavoro con Freuler, poi Freuler è mancato. Scusami, il dato che ha citato è Ferguson che ha corso di più nella partita contro l'Atalanta. Ora, sempre a un grado, voglio ricordarlo, eravamo lì e mi ricordo bene che i commenti né di Cindy e Fio, e qui accanto a me, erano proprio tutti su Ferguson, sul fatto che stesse giocando male. Allora, questo che ci insegna? Che tu puoi anche essere il primo nella statistica di chilometri percorsi, se però la metà di quei chilometri percorsi l'hai buttato in eccesso, è ovvio che la statistica non è più... Cioè, non ti racconta quello che sta succedendo in campo, perché... però quello ti racconta che non è solo un problema fisico, ecco, diciamo così, perché ma avendo fatto tanti chilometri hai sprecato energie. Però il problema è fisico, per quel motivo là, quando è che tu diventi stanco? Quando non hai più energie, se metà di quelle energie le butti correndo male o dove non serve, e per forza scendi giù. Questo è sicuramente una chiave. Odgaard, che è stato l'anno scorso invece la chiave per il cambio modulo, per il cambio di impostazione della squadra, gioca una partita ogni cinque, nel senso che ha questa... Uno dei migliori in campo a Verona, nel primo tempo di ieri, uno dei peggiori. Primo tempo, uno dei peggiori, non il peggiore, perché il peggiore era stanco già a Verona, ed è Emil Holm. Ecco, quello era l'unico forse dubbio che sulla formazione poteva anche esserci, essendo Dortea uno di quelli che sembra che abbia un pelino più gamba. Holm non aveva brillato a Verona, nonostante la vittoria, con qualche errore che poteva costare caro. Forse quello poteva essere l'unico cambio che uno poteva pensare. Non credo che avesse, cioè, quello sia il cambio che ti risolveva la partita. Ieri Holm perde due volte palla facendo una giocata da terzino zemaniano, dei tentativi di autolanciarsi, allungandosi la palla di 7-8 metri per poi non riuscire a riprenderla, che è una roba da amatori, è veramente inspiegabile l'involuzione, il percorso involutivo nelle ultime due, ma proprio la prestazione di ieri del primo tempo in una squadra in cui non si salva nessuno nel primo tempo. Stavo per dire, fai fatica a scegliere chi meglio, chi per... La domanda è, probabilmente Rowe merita più minuti dall'inizio? Forse una delle poche cose positive, diciamo così, della partita di ieri è quella di Rowe, che è un giocatore un po' anarchico, gioca un po' per conto suo. Nel finale era un po' un arrembaggio, e quindi lui è pane per i suoi denti, come direbbe il buon Abbatantuono. Forse uno dei pochi che ci ha messo quel qualcosa in più, un po' di frizzo. Se vogliamo trovare degli elementi da cui ripartire, facciamo fatica comunque a trovarli anche cercandoli, ma la reazione nel secondo tempo con i quattro cambi, viene sostituito appunto Holm da Zortea, entrambi diciamo tra gli interni e il centrocampo, Fabian sostituisce Odgaard e Moro subentra. Non per Pobega, come avevamo pensato in molti, ma per Remo Freuler, comunque prestazione molto negativa anche la sua, e Rowe per Cambiaghi. Cambiaghi per Orsolini. Cambiaghi rimane in campo, aveva fatto vedere maggiore freschezza, ma non era stato in grado di costruire niente neanche dalla fascia di là insieme a Miranda. Fiorentina ordinata, chiusa, va due volte in ripartenza. Fuori gioco sì, annullato il primo, gemello il secondo, buono, va in vantaggio. Il secondo gol che prendiamo è ancora più brutto del primo, probabilmente. Ci si, si potrebbe ragionare sul frame che racconta che non è mai in fuorigioco il giocatore numero 91, come dice l'arbitro a seguito di revisione, ma sì, siamo veramente sparpagliati e Remo Freuler ci mette del suo perché riserve il pallone. Sì, Remo Freuler, italiano stesso, ha detto Remo Freuler è al 60% della forma e ha giocato 3 partite su 3, nel senso, perché quello è l'uomo. Scusa, prima di tornare su Remo Freuler, c'è un messaggio al 333-180-94-94. Non ci sono alibi. Il comportamento dei giocatori in campo al limite dell'imbarazzante. Non si può prendere gol 30 secondi dopo che ti hanno graziato per un altro gol in fuorigioco, di un leggero fuorigioco. Qui ci sono giocatori che non ci stanno con la testa, non ci sono altre spiegazioni, Stefano. È ovvio che il mercato aperto, la situazione attuale rende anche più complesso la situazione, la gestione anche dei giocatori. La cosa particolare è che l'unico giocatore che almeno in questo primo inizio di mercato era dato in partenza è proprio Fabian, quello che segna il gol contro la Fiorentina. La stessa Fiorentina pare sia interessata a Fabian, proponendo uno scambio con Son più soldi. Mi sembra che questa sia la proposta della Fiorentina, ma anche la Lazio, altri erano interessati a Fabian. Era il giocatore un po' che sembrava essere pronto per uscire, è quello che ti ha fatto gol contro la Fiorentina. Comincia a essere un po' preoccupante, perché sempre tornando alle parole di Italiano di un paio di partite fa, lui si riferiva ad un netto calo dopo la Supercoppa. Cioè ha cominciato a parlare in modo macro, diciamo così, della situazione, che forse qualcuno si è distratto, forse erano cose che non gli appartenevano, insomma cose un po' alte, diciamo così, che non erano mai state raggiunte prima. Non vorrei che sia successo effettivamente qualcosa dentro lo spogliatoio. Magari sto esagerando, però forse qualcuno non vede più la realtà per come insomma dovrebbe essere. Per come la squadra sta giocando, sarebbe una cosa plausibile, diciamo, nel senso che un mese e mezzo fa parlavamo di scudetto, cioè nel senso legittimati, non è che ce lo inventavamo, era andato in vetta d'udine, se non mi sbaglio, è durato un paio d'ore, quindi cioè, parlavi di una cosa reale, non di fantasia. Sì, esatto, e adesso invece è una squadra che appunto nelle ultime partite fa veramente fatica a fare punti, la classifica della forma delle ultime 5 credo che non ci porta in zona retrocessione, ma quasi, ecco, credo che avremo 3-4 punti. 4 punti nelle ultime 5, 6 gol fatti, di cui 3 a Verona, e 10 subiti, che sono tanti. Che è appunto l'altro segnale in cui evidentemente qualcosa c'è di problematico. Sono, oltre a questo, quindi c'è una somma di cose che sta non funzionando in questo Bologna. Uno è anche il fatto che il Bologna è conosciuto dalle altre squadre e la Fiorentina ha giocato un po' alla Bologna in un certo senso, e ci sono molte squadre che stanno studiando lo schema del Bologna, che è sempre quello, ecco il problema. L'altro magari problema è che quelle due punte che a volte le variazioni che Italiano ha provato, nessuna ha dato una solidità. Le due punte vengono usate solo in situazioni di emergenza, ecco, diciamo così, non come scelta di impostazione. Probabilmente bisognerà inventare qualcosa, un po' come è stata l'invenzione di Odegaard l'anno scorso, che ti ha fatto girare un po' la stagione. C'è bisogno di trovare qualcosa, e è ovvio che è il momento in cui l'allenatore deve venire fuori trovando una soluzione, perché in questo momento è evidente che la squadra abbia problemi e è solo l'allenatore che può trovare la chiave. Non lo so, non so negli uomini fino a che punto può andare a trovare la soluzione, perché per esempio anche ieri una partita orrenda del Bologna, non l'hai pareggiata perché non sei lucido sotto porta, perché anche nelle ultime due occasioni degli ultimi 3 minuti, sai, quell'assalto nell'area, ci sono stati almeno 6-7 momenti in cui tu potevi segnare proprio con un minimo di lucidità, non è che servisse tanto. Quindi se nessuno dei 6-7 uomini che in quei 5-6 minuti si sono ritrovati a poter sbattere la palla dentro ci è riuscito, non so fino a che punto tu e nell'uomo che va a cercare. Di controcanto non so fino a che punto si può rinnovare Italiano la suo 3-4-3, poi si è evoluto, si è passato un pressing più veloce, più ossessivo, e se ti viene a mancare la gamba per fare quel tipo di gioco lì, quel tipo di riaggressione lì, fai tanta fatica. E come dicevi tu, se però nel frattempo gli altri ti hanno sgamato, per dire, e tu non sei più in grado nemmeno di fare la cosa in cui eccelli, in cui eri migliore, sì, per giocare al meglio il Bologna italiano deve essere in forma fisica, esatto, e deve essere appunto in questo, in palla, perché si corre molto ed è molto dispendioso. In questo momento è ovvio che la forma fisica in generale della squadra non sia al massimo. Può arrivare qualcosa dal mercato, è arrivato, anzi arriverà, perché c'è questa particolarità dell'acquisto di Elland, che in questo momento è ancora del Bran, mi raccomando, lo diciamo, perché deve scontare la squalifica in Europa League, e quindi rimane fino a giovedì, quando giocherà il Bran in Europa League, ufficialmente un giocatore del Bran. È affascinante, perché intanto il campionato norvegese è finitissimo, perché fa un freddo improbabile, e quindi sconta questa squalifica europea e poi diventa un giocatore del Bologna. Interessante che due centrali parleranno tra di loro in norvegese. E quello sì, esatto, ha trovato qualcosa di simile, può essere un aiuto, anche Eggeme è nuovo del campionato. È un 2005, è già in nazionale maggiore, è un giocatore molto interessante, anche perché dietro con le sirene del mercato e qualche acciacco di troppo, ieri non eravamo pronti a 90 minuti di Casale, non è assolutamente sul banco degli imputati per la partita di ieri, dobbiamo dirlo, non è responsabile delle nefandezze che abbiamo visto, specialmente nei primi 45 minuti, però è evidente che lì siamo corti. E siamo corti con Lucumi poi praticamente in uscita, siamo nella scadenza del contratto, quindi insomma c'è anche quel ragionamento lì. Mi sembra, ecco, la scelta... I nomi per la difesa erano usciti, anche nomi diciamo un po' più esperti, De Vrij, per dire, che all'Inter gioca poco, per puntellare una difesa che aveva problemi. Invece mi sembra che la strada sia quella di comunque investire per il futuro e prendere un giovane, anche perché la doppia scelta sul usato sicuro, tanto sicuro, non è. L'altro problema, questo è un problema reale, perché è un giocatore che ovviamente non è stato pagato, il cartellino di Immobile non è stato pagato, però lo stipendio Immobile lo prende ed è uno stipendio importante. Immobile ha il 19 gennaio del 2026 forse 10 minuti, neanche troppo aggressivi, cioè ha 10 minuti, può giocare 10 minuti così traccheggiando in mezzo al campo, e questo è un problema. Questo è un problema, è un problema anche il calendario, perché giochiamo giovedì alle 18:45 in casa contro il Celtic, Celtic che ha cambiato allenatore, andando a prendere un allenatore dell'MLS per portarlo senza preparazione. Wilfred Nancy allenava i Columbus Crew ed era una grande squadra, poi non ho capito cosa non sia andato bene a Glasgow, è durato poco. Beh, credo che il calendario abbia contribuito, visto che di là non si giocava, lui non ha fatto la preparazione in Scozia, cioè è stato tutto molto per tornare a prendere un ex, un grande vecchio della panchina del Celtic, quindi momento particolare anche per i biancoverdi di Glasgow. E sono sotto il campionato. Abbiamo smesso di parlare dell'Arts perché appena ne abbiamo citato l'Arts of Midlothian, subito il Celtic era tornato punto a punto a giocarsi lo scudetto, non abbiamo più detto niente, adesso è più 6, quindi continuerei a non seguire la Premiership scozzese, e quindi non diciamo niente di più. Rigiochiamo domenica alle 15 a Marassi contro il Genoa, e poi Bačkatopola, provincia di Vojvodina, il 29 gennaio, a chiudere questo mese folle contro l'inspiegabile squadra che fa le coppe inspiegabilmente europee del Maccabi Tel Aviv. Una partita da non giocare. Esatto, da non essere neanche in calendario. Con questo abbiamo chiuso la prima parte, tra poco ci buttiamo nella top 5. E rientriamo in diretta. Prima di buttarci dentro la top 5, posso dire grande regista oggi. Oggi grande regista, grande regista che sente l'odore dello scudetto. Mia, se lo vedi che se la tira. È tranquillo, gira addirittura statistiche in chat, ragazzi, che danno contro l'Inter, cioè nel senso che dicono che l'Inter ha sempre vinto, in queste condizioni ha sempre vinto lo scudetto. Sono statistiche da leggere cercando le chiavi in tasca, certi metallici nei pressi del tipidino qua. Ma il regista è così tranquillo che ce le gira direttamente così. Va bene, lo vedo bene. Adesso c'ha l'Arsenal questa settimana. Si vediamo. Vuoi. Mi sembra che sia un bel impegno. Comunque, volevo dire il messaggio, torniamo al 333-180-94-94. Dunque, italiano sta facendo meno rotazioni tra il giovedì e la domenica. È già successo molte volte nell'ultimo mese. Celta Cremonese, semifinale, finale Supercoppa, Coppa UEFA con la Juve, Verona e Fiorentina. L'anno scorso era sistematico, quest'anno molto, molto meno. E questa stanchezza si vede. È vero, perché ci sono anche, cioè, questo è il tema poi degli infortuni, la squadra è più corta e quindi hai meno, la coperta, diciamo, è corta e meno rotazioni possibili. Questo è sicuramente una chiave. Quelli che hanno giocato spesso loro e sono più stanchi. C'è bisogno di tirare fuori qualcosa dal cilindro. La butto lì su due piedi. Per esempio, un giocatore come Moro ti serve tantissimo come balistica, perché è un giocatore dotato del lancio che spacca le due linee e ti copre già 30 metri di campo. Ecco, quando ci auspicavamo dei cambiamenti, se vogliamo andare di fantasia, poi il mister è lui, si può cominciare da queste cose qua, cioè invece di correre tanto tu ti appoggi a giocatori che fanno correre di più la palla, non so se mi spiego, e poi insomma ti adatti tecnicamente e tatticamente alla situazione. Ma vediamo, sono sicuro che l'italiano insomma porrà rimedio. Oggi giorno di riposo per i giocatori, non credo per lo staff del Bologna, che invece in questo momento credo non riesca neanche a ascoltare la trasmissione. Mi dispiace per loro, perdono la trasmissione, perché credo che abbiano qualcosina da studiare. Possono ascoltarla comunque in podcast, che ci premureremo di proporvi nel corso della settimana. La Samba lo ha fatto e si è visto il risultato, perché poi ne parliamo. Ok, c'è proprio un collegamento caffè paglia Samb che dovremmo fare, non è in top 5 ma nel calcio internazionale ovviamente. Comunque è un bellissimo gancio per entrare finalmente in top 5 con un punto che si intitola i rossoblù che vincono. E ah no, scusate, dopo. I rossoblù che vincono inizia raccontando il top commento sotto gli highlights di questa partita di Serie A, che dice: volevo mandare un saluto ai quelli di Sassari che hanno fatto 460 km per venire a Cagliari e vedere la Juve perdere. La notizia clamorosa è una squadra rossoblù in grado di battere la Juventus. La notizia normale è che questa non è il Bologna. Non è il Bologna, purtroppo non è il Bologna. Però io, che ritengo comunque il calcio soprattutto colore, anche colore, vedere una rossoblù che batte una bianconera mi dà soddisfazione. Tra l'altro è una partita che avrei voluto vincere io, perché con il 78% di possesso palla loro, 300 tiri, cose del genere, è proprio, cioè, battere la Juve così credo che sia veramente divertente. Allora, innanzitutto sfogli un bottone aperto, perché pare che sia la settimana delle vittorie di squadre che le prendono di santa ragione e poi allungano il gancio, l'uppercut, anzi allungano proprio là e buttano giù il colosso. E partiamo proprio dalle basi. Hai detto tu giustamente che il calcio è anche una questione di colore, è sempre bello vedere un rosso-blu che batte un bianco-nero, e qui casca l'asino, perché quella non è una divisa da Juventus. È azzurrino. Sì, non voglio tornare sempre sullo stesso discorso, regista, per così. Cioè, sei d'accordo con me che quella non è una maglia possibile? Regista, d'accordo. Anche regista. Facciamo proprio le basi. Poi sì, è la settimana di queste vittorie un po' rocambolesche, possiamo dirlo, che però sono il sai del calcio. La bellezza di questo gioco è quello, ed è per quello che insomma quando vengono aiutate troppo le forti e le grandi è un peccato, perché proprio la bellezza di questo, ne avete parlato la settimana scorsa il Macclesfield, cioè, e comunque ci sono state altre partite, il Paris Saint Germain credo che sia stata eliminata da una squadra di Serie B in Francia, in Coppa di Francia, quindi insomma capita, può capitare nel mondo del calcio più che in altri sport. Nel basket ci sono sono partite che finiscono 120 a 100 a 100, quindi sono tanti scontri diretti che se tu sei più forte di quell'altro alla fine, alla lunga, viene fuori la situazione. Nel calcio non è così, una giornata storta dell'attaccante, il portiere della squadra piccola. Andate a vedere come il Barcellona ha perso la partita di ieri. Cioè, se siamo meravigliati per Milan, per Como Milan, andate a vedere come ha perso la partita in Barcellona, che è incredibile. Lo faremo dopo, perché intanto torniamo sul fatto che il Cagliari ha vinto. Una grande prestazione difensiva, l'ennesima grande partita, non mostruosa, attenzione, semplicemente ordinata, lucida e con grande tranquillità di Caprile tra i pali. Mina, ministro della difesa, lo avreste mai detto? Io no. Come no? Dai, sì, è un animale pazzo, guarda, abbiamo parlato già più di una volta di Mina. Ma non nell'esplosività, nella gestione dell'uno contro uno, proprio nell'ordine mi ha stupito. Si vede, se trovate gli highlights lunghi, si vede quante volte i giocatori della Juve, spoiler, 21, arrivano al tiro e quante volte prendono dei tiri scomodi, brigosi, perché la difesa è ordinata. La ciliegina sulla torta è la grande, grande, grande rete di Mazzitelli, che colpisce alla cieca una palla filtrante su un calcio di punizione. E in porta c'è Perin, che la vede partire quando ormai è già dentro, perché è filtrato da un sacco di suoi giocatori in barriera. Mi piace molto la faccia di Mazzitelli, che è quello tipico di quello che dice: boh, io ci provo, non so se ci riesco, e la colpisce così bene, perfettamente, molto meglio di come l'aveva sognata, e fa sta faccia come dire: ah, l'ho fatto davvero, io sono stato io. Cioè, una faccia proprio, perché dice lui la prova a farlo, certo, cioè non è che è una cosa, però la colpisce così bene che fa quel giro strano il pallone, che proprio gli gira perfettamente, ed è un bellissimo gol. Ovviamente partita che ai punti avrebbe vinto la Juve, o comunque nettamente meritato sicuramente in più la Juve, però il Cagliari che comunque è una bella squadra. Pisacane è un allenatore altro che ha l'esordio, ha messo in campo una squadra seria, e Sebastiano Esposito, che comincio a quasi a credere che gli Esposito stanno facendo una bella stagione, tutti e due, sono due belli attaccanti, completamente diversi, e c'hanno Palestra sulla fascia destra, insomma, no, bella squadra. In questo momento il Cagliari ha 22, sono 5 punti di vantaggio sull'ultima retrocessa, non può dirsi tranquillo, però la strada viaggia, è quella. Viaggia, la barca va. La barca va, esatto. E questo punto in top 5 ci porta proprio direttamente dentro quell'altro, dentro un dibattito di cui nessuno sentiva la necessità, perché è un dibattito proprio inciso nel granito da quando il gioco del calcio è stato inventato, ed è questa tensione completamente immateriale tra giochisti e risultatisti. Che pa! Ancora qua siamo, ed è tutta colpa di Fabregas stavolta. Io non pensavo che sarei arrivato a detestare il Cesc Fabregas, che ammiravo giocatore in maglia blaugrana, ma il personaggio pubblico, godendo anche di credito illimitato, è abbastanza inspiegabile da parte del racconto dell'informazione mainstream sul gioco del pallone. Può dire quello che vuole anche per moltissimo tempo, perché fa delle conferenze stampa lunghissime, tra l'altro. Sì, a me invece non dispiace Fabregas anche nella fase comunicativa, devo dire, non è stupido, non è una persona stupida. Allora, no, effettivamente davanti ai microfoni è un po' anche tipo De Rossi, cioè un uomo che si ascolta volentieri perché fondamentalmente parla di calcio, e già per questo è buono, però se ne è uscito proprio male dopo la sconfitta con Milan. Sì, era un po' piccato, quella lì gli è nata al fatto che gli stava un po'... Si dice rosicà, però è anche vero che di fronte c'aveva il tuo amico Allegri, che so che anche tu non ami, quindi mettiti nei suoi panni, ecco, mi verrebbe da dire. Ci ho proprio pensato quando Fabregas è uscito, io ho sentito qualche cosa di Simone dentro, qualche vibes di Simone, perché di là c'era proprio Allegri, quindi non esagerare. No, anche perché sei pagato tantissimo anche per saperci fare davanti tu prendi microfoni. Meno tu per dirlo esatto. Tu prendi sicuramente meno, non te ne puoi uscire. Sarei preso praticamente, non so con le forze di divinità, vedo che qui ci sono ancora i risultatisti, amico mio, cioè l'hai dominato la partita? Sì. Maignan ha fatto la partita da supereroe? Sì. T'ha girato male? Sì. L'abbiamo detto. È il calcio, bellezza. È la domenica che è così. Allora, Cesc Fabregas in un triangolo semiotico si trova a un estremo, negli altri due estremi ci sono Daniele De Rossi e Thiago Motta. Cioè, il suo modo di paraculo, ma ricco, con molto self-confident, ma piange anche parecchio, lo posiziona in un estremo nuovo della comunicazione. C'è Guardiola che è maestro in questo, E infatti, spagnolo. Però volevo dire, Sex, sei un grande, tutto bellissimo, però, cioè, bombone, cioè. No, in realtà la cosa drammatica è che se oggi vince il Como va a più 7 sul Bologna, questa è la cosa veramente drammatica. A parte questo, diciamo che comunque la situazione, insomma, è quella. Il Como non ha giocato stasera. Il Como non ha giocato, giocherà contro la Lazio, squadra sventrata, arricchita dal mercato, non si sa, forse va via anche Isaacsen, è un casino la Lazio, è tutto molto complesso. E non so come la percepiscono loro, perché se la percepissero come uno scontro diretto, il Como non lo vince, perché okay, il Como non vince gli scontri diretti. È vero, speriamo quello. È vero che poi la Lazio stessa potrebbe, in un certo, con una vittoria, potrebbe superare il Bologna. La situazione è questa della classifica. Non tornare sempre, vi possono superare chiunque, perché l'abbiamo dato col Bologna, vi siete avvelenati abbastanza. Ok, va bene, siamo in top 5, hai ragione, il tema è la top 5. Nel dibattito tra giochisti e risultatisti entra a gamba tesa Fulkrug, che già avevamo visto fare solo che delle sponde anni 90 nel pareggio del Milan contro la Fiorentina. Due assist quelle sponde anni 90, stati bene, due assist. E risolve la partita contro il Lecce, Lecce che non aveva affatto sfigurato e viene proprio castigato dalla zuccata di Fulkrug. Probabilmente è stato il primo acquisto del mercato di gennaio della Serie A Fulkrug, no? È arrivato forse il giorno prima di... Io sono qui. Il West Ham in un mare di guai non vedeva l'ora di liberarsi di Fulkrug, che non segnava da 6 mesi, tipo, cioè, sì. Era in una situazione particolare anche con la piazza e con la società. È arrivato a Milano, si è subito inserito come alfiere al soldo dei risultatisti. E chi c'è di più risultatista di Allegri? Assolutamente sì, in questo caso gli è girata bene, importante, perché il rischio che l'Inter scappasse in classifica era reale, quindi con un pareggio, diciamo così, la situazione era abbastanza... Posso, per concludere il discorso risultatisti e giochisti, è anche vero paradossalmente il contrario, cioè chi racconta di meraviglie di Allegri, dei risultati, chi sta dalla parte dei risultatisti pure dovrebbe capire che non è che se vinci una partita a culo, perché tu hai vinto a Como a culo, la Real Sociedad ieri vince solo per culo, allora da lì puoi credere che quello in realtà sia il primo mattone di una scuola di pensiero. No, t'è andata di culo, cioè come Fabregas deve accettare, oh, ho perso, tu devi accettare l'idea del fatto che Maida di culo, mi spiego, cioè non dovrebbe nemmeno esistere questa discussione qua, è molto facile in realtà, è così, come dice l'antico proverbio cinese, l'occasione fa l'uomo ragno. E proprio questo gancio ci porta a un altro punto della top 5, che si intitola Scesi dall'aereo. Abbiamo detto di Fulkrug, primo innesto del mercato di gennaio, che ormai finisce mai, non si sa, dicembre, gennaio, febbraio, il mercato ha aperto, che è quello che non fa performare i nostri ragazzi comunque. E in realtà ti sbagli, non è il mercato di gennaio che sembra illimitato, è proprio il mese di gennaio che dura tipo 85 giorni. Quindi ecco perché il mercato sembra più lungo il mercato. È gennaio stesso che è il problema. Gennaio dei diaframma inizia con una delle più belle aperture della musica italiana, che è Parte dei soldi di spesi in assoluta allegria, e parliamo di due società che hanno speso, ognuno secondo le proprie disponibilità, bene, almeno fino a questo momento anche molto bene, sul mercato, con due giocatori che si assomigliano ma non si assomigliano, di due squadre che non si assomigliano neanche un po'. Parliamo di Malen alla Roma, un pallino di questa redazione da quando giocava con la maglia del PSV, quella stagione lì, e Durosimmi arrivato misteriosamente in una Pisa caldissima, che ha dimostrato di saper giocare a pallone ma di avere grossi problemi in fase realizzativa. Hanno bollato tutti e due. Appena arrivati, vero? Il mercato inizia a farsi sentire, insomma, come per Fulkrug, anche per questi due. Malen acquisto importante per la Roma. La Roma che comunque aveva ben giocato, creando una forte realtà difensiva, pochi gol subiti, però mancava un po' della parte della realizzazione, aggiungendo giocatori interessanti. Male è entrato, ha fatto gol, quindi insomma, mi sembra che si sia adattato bene. È vero che insomma, bisogna aspettare qualche partita ancora per capire, però mi sembra che siano andati a migliorare la squadra, una squadra che comunque può puntare alla Champions. Posso esprimere la felicità nel vedere, dopo anni di attesa, Daniel Malen nel campionato italiano, perché è letteralmente un feticcio di questa redazione qua, da quando ero ragazzino a PSV. Poi ha avuto una carriera importante, perché Borussia Dortmund, Aston Villa o West Ham, uno dei due, Claret & Blue, con l'Aston Villa, cioè, per me un giocatore nazionale olandese, parliamo di un giocatore pesante, già a livello di curriculum, di talento. Sono molto molto molto contento di averlo. Ieri grande Soge, stoppa, smorza una palla bellissima in occasione del gol. Molto interessante la combo col talento, il suo talento insieme a quello di Dybala. Quindi vediamo se cosa riesce a creare Gasperini. Si sono trovati talmente bene Dybala e Malen che il primo gol di Malen viene annullato per fuorigioco e lo rifanno uguale. Uguale. Tutti e due, sia Dybala che Malen, cioè fanno la stessa giocata tre minuti dopo. Eh sì, mi sembra anche Dybala che stia riprendendo tono, segna anche un gol alla Dybala, cioè il tocchetto col tocchetto buono, fa fare gol e assist. Mi sembra che fisicamente abbia già giocato due o tre partite consecutive, che è il top di quello che può fare, Dybala in questo momento. E intanto però per la Roma gli 1-0 diventano 2-0, non prende gol, nelle ultime 5 partite ha subito solo 2 reti, e il lavoro difensivo lasciato, l'impronta del lavoro difensivo di Ranieri, di cui abbiamo parlato tante volte, si sta arricchendo con un po' di gasperineggiamento e la classifica è molto contenta. È a un punto dal Napoli, la Roma 42 contro i 43 del Napoli, più 3 sulla Juve che in questo momento è quinta. Ovviamente la battaglia, lo sappiamo, è per le prime quattro, no? Arrivare nelle prime quattro è una cosa che ti può far progettare una stagione, la stagione dopo, in maniera completamente diversa da essere in Europa League o in altre zone, ed è una battaglia che può ancora insomma giocare ampiamente con tutte le sue possibilità. L'Inter capoclassifica a 49, sono 7 punti di distanza dal primo posto, diciamo forse il primo posto è troppo per questa Roma, però un posto in Champions mi sembra che possa meritarselo. Qualcuno dovrà uscire, perché sono tante le squadre che vorrebbero entrare, almeno 5 squadre vogliono entrare in Champions, sicuro una di quelle 5 no. Direi che per una questione proprio di logistica, direi che Milano, cioè due città, cioè due squadre, una è già in Champions, cioè l'Inter andrà in Champions adesso se non prima, ma entro le 4 cerchi, direi che è più che sufficiente. Dici che il Milan potrebbe... Io direi una squadra per ogni grande città, Napoli, Roma, Milano, qual è la quella? Torino. Se no c'è il Como, quella sotto è il Como, che poi dopo Fiò, se il Como va in Champions... No, per carità, non lo voglio sulla coscienza, no. Vabbè, vediamo, la quarta vediamo. Comunque questo è la situazione. Punto pesante porta a respirare a fine partita anche il Pisa, grazie a un gol di un appena sceso dall'aereo, Duro Simmi, che va a fare quel gol che manca sempre al Pisa, dentro prestazioni anche molto positive, molte idee, voglia di giocare a pallone. Abbiamo detto scherzando da questi microfoni, per una squadra che si deve salvare l'ultima cosa che devi fare è provare a giocare a pallone, e se manca solo il gol un realizzatore serve come il pane. Duro Simmi entra al 68esimo rilevando Meister, l'Atalanta segna, non aveva fatto una grande partita l'Atalanta, era un po' in flessione e quel vantaggio era proprio veramente spezzava le gambe a questo Pisa che rincorre nei piani bassi della classifica da sempre, cioè il suo campionato è all'insegna di questa fatica da piani bassi così. Il punto lo porta a casa grazie a Duro Simmi, appena arrivato, attaccante nigeriano a forma di attaccante nigeriano, chiama la palla, sono in tre sul cross, lui è quello in mezzo e spiazza l'ottimo Carnesecchi, migliore dei suoi. Esatto, in un Atalanta che comunque stava riprendendo la strada giusta, anche in classifica è appunto ha superato il Bologna, è a 32 punti e punta al Como, diciamo così, alla posizione del Como, quindi insomma si lotta per l'Europa, non per la Champions ma per le altre piazzamenti dell'Europa. Per il Pisa la vedo abbastanza grigia, anche perché se diciamo che la Fiorentina si toglierà da questa zona, prima o poi si toglierà perché ha una qualità troppo più alta delle altre, in questo momento la prima salva è il Genoa, e il Pisa ha 14 punti, il Genoa ne ha 20, quindi sono 6 punti di distacco, iniziano ad essere tanti su un Genoa che comunque con De Rossi sta ben giocando. Poi c'è il Cagliari, che, di cui abbiamo appena parlato prima, in top 5, e la Cremonese che era partita molto bene, adesso è in fase un po' di recupero, c'ha la sua ha una partita in meno, deve giocare anche la Cremonese col Verona, quindi insomma una sfida importante, potrebbe raccontare qualcosa anche diciamo se in caso di sconfitta la Cremonese potrebbe essere risucchiata nel gruppo della retrocessione, o con una vittoria potrebbe staccarsi superando Torino e Parma e anche Sassuolo in un colpo solo. In caso di vittoria appunto la Cremonese andrebbe all'undicesimo posto, quindi insomma cambia, tanta roba, cambia tutto diciamo. Dalla coda alla testa c'è una capolista, non abbiamo ancora parlato, e il pezzo in top 5 si chiama Lautaro Lautareggia. Lautareggia, sì, Lautaro Lautareggia. Bel gol di Lautaro Martinez. Dai, non esagerare, guarda quel lato della regia. Ha tirato fuori la sciarpa. Mia, addirittura il saluto di Lautaro, addirittura. Allora. Beh, è un Inter che comunque, abbiamo detto, è la più forte del campionato. Più che la più forte, credo che sia quello col gioco più rodato. Sono anni che gioco la stessa maniera all'Inter, ok? È partito tutto da Antonio Conte. Inzaghi l'ha portato avanti modernizzando tutto quanto, e sembra che Chivu rimanga sullo stesso, no? Progetto tecnico-tattico, e si vede meccanismi perfetti, esterno esterno, tutti che sanno dove andare a performare nelle zolle che più si adattano al tipo di calcio del singolo giocatore. Che c'è da dire? Soltanto un parere personale, credo che il gol di Lautaro di domenica sia il più bello della giornata ed è uno dei più belli del mese. Perché? Perché è bella popolazione, cioè succede, l'Inter riesce a far fare ai suoi attaccanti tutto quello che devono fare gli attaccanti dentro un'area di rigore, cioè quello alto è Gruss, che è Esposito, che però guardatelo bene l'assist che fa, la smorza in una maniera deliziosa, perché è una triangolazione, lui la ridà indietro all'altro, però smorzandola, quindi rallentando il pallone, perfetto sul piede di Lautaro, che poi fa Lautaro, appunto Lautareggia, controllo sinistra, destra, poi è un gol davvero, cioè la coppia attaccanti perfetta. C'è proprio l'ABC di quello che deve fare una coppia di attaccanti, alto, grande, piccolo e rapido, e quindi credo che sia davvero un grande, grande, grande, bello, bello, proprio bello, bello. Adesso l'Inter ha un bel calendario, nel senso che ha l'Arsenal in Champions League, poi il Pisa in casa e il Dortmund, per finire la Champions League a Dortmund, quindi insomma trasferta a Dortmund, così finirà anche il girone di Champions. Siamo proprio verso la fine, volevi chiudere? Non sarebbe una top 5 senza il quinto punto, che si chiama finalmente Vergara. Il risultatista questa strappa un puntone d'oro, ma il Napoli poi va a Sassuolo, segna Lobotka che non segnava da un milione di anni, con Vergara titolare. L'avete visto ragazzi? Dall'inizio. L'avete visto? Parastinco, no? Col calzettone un po' basso, sinistro magico, grande personalità. Se c'è da dribblare, dribbla. Se c'è da fare ammazzate, fa ammazzare, giocatore delizioso. Bene, bene, vedremo, potrebbe essere un inizio se inizia Conte a dargli un filo di fiducia, anche perché insomma è pieno di infortuni. E il ragazzo se lo merita, perché è giocatore di calcio vero. Sì, tra l'altro non è più giovanissimo, momento in cui bisogna capire se può diventare un giocatore. La tutela di quelli che giocano con i calzettoni abbassati. Noi facciamo parte di quel direttivo lì. È un messaggio molto importante da consegnare ai posteri subito prima della pubblicità. Rientriamo dentro a questa terza parte di Caffè Paglia di quest'oggi. Dai, alla fine ci siamo riusciti a tirare sul morale, nonostante l'inizio un po' così, no? Della trasmissione, dopo questa sconfitta un po' cocente nel derby dell'Appennino contro la Fiorentina. Sento la base è quella che ci porta a parlare di calcio estero. La la la la la la la la la la la. Socia, come l'ho presa? L'hai presa bene, stavolta l'hai presa proprio bene. Direi di partire dalla Coppa d'Africa. Che dire, calcio internazionale, no? Vabbè, più internazionale di questo. Non so che dire, se avete visto le immagini di quello che è successo nella finale tra Marocco e Senegal, a cui sono particolarmente affezionato, neanche mi dispiace che abbia vinto, anzi, sono quasi contento, però. Che dici? Cioè, ce ne sono state talmente tante cose da dire su quel finale che quasi non si trovano le parole. Sì, veramente. Allora, io se sono un compagno di squadra di Brian Diaz nello spogliatoio, gli lascio un segno, diciamo così, perché tirare un rigore decisivo in casa nella finale col cucchiaio è proprio al 97, quant'era? 95. In casa. Ma tira una cannonata, tira giù la porta. Capisco se prendi il palo, tira una botta clamorosa, prendi il palo e dici vabbè, ma così sei veramente un pirla. E il tuo periodo di milanesità hai tenuto la pirleria, ecco, diciamo così. No, ma cioè, non esiste che tu fai vincere l'ego, che fai vincere il tuo ego personale sulla gloria di una nazione intera, in casa. non so se avete visto in Marocco il casino che c'è quando gioca in Marocco, cioè è tanta tanta roba. Comunque è non so che dire, davvero. Si dice che non te la devi prendere con uno, non è mai colpa soltanto di uno, quello che cazzo vuoi tu, però in quel caso lì è veramente così, insomma. Se come te fossi stato un suo compagno, non lo so, non lo so. Come sarebbe andata? Comunque, il finale, appunto, rocambolesco, ricorda anche un po' uno storico del calcio europeo, il Marsiglia-Milan dei tempi di Gagliani, perché a un certo punto addirittura la squadra viene portata via, no? C'era qualcosa di quello, ed è stato proprio un finale molto, molto rocambolesco. Io ho avuto la fortuna di assistere a un simposio tra grandi intellettuali esperti di Coppa d'Africa, i ragazzini del 21. Il 21 parte da San Donato, fa Duse, Magazzari, Andreini, carica nelle case popolarissime di quel pezzo di San Donato, poi viene nella mia zona in Bolognina, nelle mie case popolarissime, cioè non sono mie, intestate a me, cioè la zona dove vivo io, e i ragazzini teenager appassionatissimi di pallone hanno fatto un riassunto perfetto dell'avventura del Marocco in questa Coppa d'Africa. Hanno fatto un mondiale della Madonna, si sono fatti un gran viaggio, poi siccome sono scemi hanno perso, più scemi di loro solo la Nigeria. Ok, questa è la data. Cioè, in quattro parole, un gruppo di ragazzini devasta l'intera opinione pubblica dei giornalisti, l'opinione pubblica, l'intera, diciamo, narrativa di giornalisti sportivi professionisti, in quattro parole. Questa è quella che un marxista definirebbe una grande lettura di fase. esatto. Giustamente questa, e quindi questa è la situazione. Bravo il Senegal che riesce a portare a casa la vittoria. Era l'underdog delle quattro, perché comunque la finale che tutti si aspettavano era Marocco-Nigeria, e dall'altra parte c'era Egitto-Senegal, insomma il Senegal delle quattro era quella proprio meno quotata, meno accreditata la vittoria finale. È vero. Molto bene, bravi ragazzi. Ci piace. Un abbracciatone a Sadio Mané, uomo eccezionale. Un abbracciatone a tutta la città di Dakar e so io perché. Va bene, ok, adesso non continuiamo, andiamo a vedere gli altri campionati. Iniziamo a vedere cosa è successo in Premier League, anche perché l'Arsenal appunto sta arrivando a Milano per giocare contro l'Inter, e l'Arsenal in questo momento ha addirittura 7 punti di vantaggio. Ci arriva dopo uno 0-0 casalingo contro il Nottingham Forest, una partita non memorabile che però ci ha fatto ricordare perché amiamo così tanto Miguel Merino. Sì. Giocatore clamoroso. Clamoroso 0-0, però tu dici perde, pareggia 0-0 e quindi perde punti? No, perché il Manchester City perde il derby con Manchester United, quindi comunque con quel pareggino lì, classico situazione da Utopia Gunners, ti porti addirittura un punto a casa in più. Ho potuto sentire le urla dei dirigenti del Lecce da casa mia sul gol di Patrick Dorgu. Adesso stiamo scherzando. Niente, la solita Premier League, secondo me sembra esagerata come percepita e tutto quanto. Sì, che fai tanto il fenomeno, adesso già vedete l'Arsenal, di te che sta in regia di là, ok? Arsenal, che però è una curiosità, è la squadra che sta dominando, no, però magari sta padroneggiando, diciamo così, la Premier League, però andando un po' in antitesi su tutta la narrativa come ce la immaginiamo la Premier, perché lo sta facendo su una fase difensiva molto seria, molto molto molto seria, non so, qua ha preso pochissimi 14 gol in questo momento, 40 gol fatti, 14 subiti, e probabilmente la squadra più pericolosa del mondo sul calcio piazzato. Fa delle cose bellissime, studiano, cioè quello che ha fatto col Bayern, il gol sul calcio d'angolo che ha fatto col Bayern con 6 giocatori che corrono da una parte all'altra per creare casino, sì, molto studiato anche da quel punto di vista lì. Prima non prenderle 14 gol, la seconda di miglior difesa è il Manchester City, che non a caso è secondo e ne ha 21, quindi 7 gol presi in più. Manchester City che perde, ma perde anche la Aston Villa, quindi entrambe le squadre che potevano avvicinarsi all'Arsenal, e questo può essere un segno degli astri, ecco, diciamo così, potrebbe esserci qualcosa. Credo sia una ventina d'anni che l'Arsenal non vinca lo scudetto, una roba del genere, credo 2005-2006. credo. Era il degli imbattuti, è quello lì, l'Arsenal di 2003. Dopo gli Invincibili. Ah, dopo gli Invincibili. Okay. Dopo, sì, sì, quindi è 2006, l'ultimo credo sia, potrebbe essere una ventina d'anni che non vincono i Gunners. Intanto arrivano altri messaggi, li leggiamo. Buongiorno da Giuseppe, non so se avete visto la finale di Coppa d'Africa, ma ieri io che sono reduce da un viaggio in Marocco ho provato un po' di dispiacere nel vedere la sconfitta, però Brahim è proprio un coglione, ecco, diciamo. Sono da... del simposio anche lui quella che e si pensava di essere Totti. Sadio Mané invece un grandissimo uomo, è lui che ha evitato la sconfitta a tavolino e l'esclusione per chissà quanti anni da tutti i tornei se avessero seguito l'allenatore che proprio non ci sta con la testa. Bravissimo Giuseppe, grande, bel messaggio che condividiamo in toto. Impeccabile. Poi l'Inter, vi ricordo che gioca senza Dumfries, è un altro messaggio. Due anni fa a Milano, novembre 2024, l'Arsenal le ha prese 1-0 con Ciala su rigore. Ci sono anche queste possibilità, vedremo, potrebbe essere. Allora voglio dire a tutti gli amici del nostro regista di non disturbare, ok? Che noi qua si sta lavorando, okay? Non è che dovete venire qua a spacciare. No, adesso a parte gli scherzi, sarà una gran bella partita. Mi aspetto una gran bella partita. Quella è una delle partite di Champions. Oh, tra l'altro l'Inter è finalista di Champions, non è che sia una che ci è passata per caso l'anno scorso. E quindi insomma questa è la situazione. Ritornando ai campionati, dicevamo appunto tutte perdono praticamente, non vince neanche il Liverpool che è quarta in questo momento, ha recuperato un po' però molto lontano dall'Arsenal. Si fa un pareggino, fa un puntarello con un 1-1 e interessante invece quello che era un inspiegabile scontro diretto tra il Chelsea e il Brentford, hanno la meglio i Blues. I Blues per l'ultimo posto utile fuori dall'Europa per provare a riagganciare quel trenino là. Eh sì, e con tutti questi risultati alla fine il Manchester United, che era partito male, si trova a un punto dal Liverpool al quinto posto, quindi comunque in piena lotta Champions League, e ovviamente dopo l'inizio particolare, insomma era un po' a sorpresa, ha superato anche il Chelsea che ha 34 punti, Brentford che credo sarà l'avversario, se non vado errato, del Macclesfield. Sì, esatto, il sorteggio è stato fatto, quindi Macclesfield giocherà in casa contro il Brentford il 16 di febbraio. Saremo tutti lì sugli spalti di questo stadiolino da 3.000, non c'è neanche scritto, credo sia 3.000 persone, una roba del genere, insieme al fratello di Wayne Rooney che allena. Ah, la sì? Squadra. Ah, non lo sapevo questo. Il fratello di Rune. Ma che faceva un altro lavoro, eh. Cioè, immagino. E lì si è trovato, sono il fratello di Rune. Vabbè, allora fai tu i cambi per noi. Facciamo un nome che attira le copertine. Ci sta. Allena Rune, non è male. Allora andiamo in Spagna, perché siccome avete detto Macclesfield io dico Albacete, anche l'Albacete ci ha regalato delle belle soddisfazioni, elimina il Real dalla Coppa all'ultimo respiro, clamoroso, bellissimo, e questo potrebbe sembrare un segnale pesante degli astri per Casa Real dopo il simpatico siparietto inneggiando a Florentino Perez con Simeone che va a provocare Vinicius Junior dicendo ridi che tanto Florentino licenzia anche te. E invece hanno licenziato Xabi Alonso e la prima partita senza Xabi Alonso è quella appunto contro l'Albacete in Coppa del Re, e prima avevo detto che il Paris Saint Germain era stato eliminato da una squadra di Serie B, invece no, il Paris Saint Germain è stato eliminato dal Paris FC che è di Ligue 1. È vero che è stato eliminato, ma da una squadra di Ligue 1, ed è il Real Madrid che invece li ha prese dall'Albacete. Vorrei sapere da Simone come ha preso questa settimana del Real. Noi sappiamo che Simone voleva Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid già da anni e soprattutto non sopportava il Carletto Ancelotti, allenatore dell'ultimo Real Madrid. È arrivato Xabi Alonso lì dove doveva arrivare e il progetto non ha portato grandi risultati. No, perché ovviamente quando giocatori come Vinicius, Mbappé, questo tipo di giocatori abituati a essere trattati con i guanti e pensati in modo diverso dai propri allenatori, si ritrovano a dover lavorare in campo, cioè oltre a dribblare devi anche fare con Xabi Alonso, adesso non abbiamo tempo, ma i tifosi, i fan, chiunque segue il calcio internazionale conosce il calcio di Xabi Alonso, c'è bisogno di determinato lavoro, e chiaramente le due cose sono cozzate, era evidente, era palese anche dai comportamenti dei giocatori nel post gara, determinati movimenti, insomma è andato proprio il rapporto deteriorato. Florentino Perez lo conosciamo, non è che poteva licenziare tutti i giocatori del Real Madrid, tipo un maio di miliardi di euro, quindi salta Xabi Alonso. È un peccato, perché questo era un progetto che ci fosse stato nel tempo, che a Madrid non credo esista nessuno che conosca la parola, il significato della parola tempo, e niente, è saltato, un grosso dispiacere, perché c'era il potenziale per fare qualcosa di grosso. Non è andata, succede, ma vedremo. Xabi Alonso sicuramente troverà una panchina di qui a poco, vedremo quale sarà il suo futuro, perché ovvio con Leverkusen ci ha fatto brillare gli occhi con la sua grande stagione meravigliosa, era alla prova della big, diciamo, ha un po' toppato secondo me più da un punto di vista personale che da un punto di vista tattico tecnico, non è stato in grado di gestire quel ruolo, che è un ruolo che è un po' diverso da quello di fare allenatore di qualunque altra squadra. Beh, secondo me qua le colpe maggiori, come al solito, sono della società, perché tu dovevi intervenire sul mercato, cioè è ovvio che uno tra Mbappé, Vinicius e Rodrigo è secondo me di troppo, forse uno e mezzo sono dei troppi, cioè per il tipo di gioco che fa Xabi Alonso non sono quelli i giocatori, perlomeno non tutti e tre. Se non intervieni prima ancora che possa succedere un eventuale scontro tra richieste dell'allenatore e ego dei giocatori, e allora se tu sei società che hai toppato la situazione, e dopo è una conseguenza. Certo, questa è la situazione. Comunque torniamo in Spagna, rimaniamo in Spagna, perché non solo il Real Madrid che ha perso con l'Albacete. Poi in campionato Arbeloa fa tutto facile, il calendario propone il Levante va preso a pallate e succede esattamente questa cosa, e questi tre punti acquistano un peso specifico maggiore perché il Barcellona fa quella partita là. Esatto, l'avevamo citata all'inizio, Real Sociedad contro Barcellona finisce 2-1 con un espulso da parte della Real Sociedad, quindi la Real Sociedad in 10. Quasi sul fine della partita. Però in realtà, a parte questo, il risultato è abbastanza bugiardo. Bugiardissimo in una maniera. Io sono molto contento che abbia vinto la Real Sociedad, ma è un risultato incredibilmente bugiardo. Tipo 5 sono i legni colpiti dal Barcellona, più 3 gol annullati, di cui uno per la posizione di fuorigioco dell'ultimo tacchetto in alto a destra della scarpa di Yamal. E non vi sto prendendo in giro, non sto esagerando. È proprio così. È il tacchetto della scarpa a destra di Yamal che è in fuorigioco, il tacchetto. E niente, finisce che, per tornare a Fabregas, si può perdere anche una partita del genere, che quasi letteralmente dominato, letteralmente dominato. Allora, dal punto di vista di XG non è male, perché è 3,68 il Barcellona contro 1,01 il Real Sociedad. E ricordiamo che un calcio di rigore vale 0,7 e che le azioni fermate per fuorigioco non vanno nella somma degli XG. Esatto, quindi solo così, giusto per raccontare un po' la partita, te lo può dire. In effetti un po' alla Real Sociedad un po' di buona sorte se la meritava. Io ho Oyarzabal, gran gol. Questo, io penso che vorrò bene a questo giocatore fino ai 50 anni, ma finché, anche dopo che ha smesso di giocare, perché è un giocatore che ha visto ieri la timbra al volo di sinistro, bam, all'incrocio dei pali, bello. E questo risultato riapre completamente i giochi, perché il Barcellona ora ha 49 punti, il Real Madrid 48, quindi se la giocano assolutamente lì. Il Villarreal, che ultimamente ha perso un po' contatto, era molto vicino alle due che guidavano, ha 41 punti con sempre una partita in meno. Sappiamo che prima o poi la farà giocare, adesso l'abbiamo persa quella partita da recuperare del Villarreal, ha 41 punti insieme all'Atletico Madrid, ha una partita in meno, però è già arrivato Simeone con l'Atletico Madrid lì attaccato, e queste quattro, diciamo così, sono quelle che dovrebbero giocarsi i posti in Champions, perché al quinto posto, un po' a sorpresa, c'è l'Espagnol con 34 punti, quindi staccato, abbastanza staccato dalle altre, però un po' a sorpresa lì in quella posizione. E dove sono le basche? Le basche sono più in basso, si scende e si arriva all'ottavo posto con la Real Sociedad, pari all'Athletic Bilbao e anche il Girona, giusto così, la mettiamo, è un po' catalana, è più catalana che basca il Girona. L'Athletic Bilbao fa una partita incredibile, finisce in 9, prende tripletta da Murici che sbaglia anche un rigore. No, 3 più un rigore sbagliato. Sì. Devastante, rimane in 9 al 70esimo, poi non la riprendi mai più. Segnaliamo una grande prestazione ok, lo sappiamo, Nico Williams, ma di Unai Simon che fa gol e assist. Esatto, è questo. Il portiere? Non è Unai Simon il portiere, mi sbaglio io. Ok, un altro, ok. Sbagliato io. No, gol e assist del portiere sarebbe un risultato clamoroso. Unai Gomez, ho sbagliato io. Mo che io sia rincoglionito è vero, ma non fino a sto punto. Ma anche che io sia rincoglionito è altrettanto vero. E forse più vero anche della tua, del tuo. Ve la potete giocare. Vince l'Osasuna con una doppietta di Ante Budimir. Questi giocatori che passano dall'Italia poi diventano miti altrove, mi gasano sempre. Altrove la Liga. Cioè, esatto, insomma, voglio dire. Ci sono campionati peggiori, ecco, dove diventare campioni. Velocemente la Germania, poco interessante, perché 5-1 vince il Bayern. Contro la seconda in classifica. Contro la seconda in classifica. In trasferta, di cazzo parliamo. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro qual è la strada. Sono 11 punti di vantaggio del Bayern sul Dortmund, che ha vinto Dortmund, e quindi è diventata seconda, battendo il San Paoli 3-2. Sotto il San Paoli la vedo molto, insomma, messo molto male, 12 punti insieme al Magonza, e a 13 punti c'è l'Heidenheim. In questo momento l'Heidenheim andrebbe allo spareggio con la Zwei Bundesliga. L'Augusta è la prima salva e ha 16 punti, quindi per il San Paoli soprattutto sarà un finale di campionato da giocare col coltello tra i denti. Velocemente vado anche in Belgio, perché lo Standard Liegi non è più nella top 6, quindi so che alle standard so che questa cosa può rendere insomma felice il nostro Fio. Invece il Becker continua a essere al quinto posto, quindi ancora dentro alla anche nonostante la sconfitta 1-0 contro Royal Union de Saint-Gilloise, che ripeto una delle squadre più belle d'Europa quest'anno, che comunque ti piace molto. Esatto, bella squadra. Ha perso contro una squadra va bene. Esatto. Lo Standard Liegi perde contro lo Charleroi, una delle rivali storiche dello Standard, l'altra squadra francofona storica, diciamo. Esatto. E abbiamo cantato molto contro lo Charleroi quella volta che ho incontrato i ragazzi di Liegi. E tutto questo però è propedeutico a venire fuori dalla top 6 ed andarsi a plafonare a 27 punti in ottima compagnia. Esatto, insieme all'Anversa e lo Charleroi che raggiunge a 27 punti nel girone, diciamo, che dà la possibilità di arrivare in Conference League, se si riesce a passare. Ma voi ve lo ricordate l'Anversa che fa la finale di Coppa UEFA con il Parma, se non mi sbaglio? Mo posso dire cazzata, ma credo che il Parma vinca la Coppa proprio contro l'Anversa in finale, con un gol in sforbiciata di Minotti, una cosa del genere. Mi si è recito? No, il Parma no. Crede, come no? No, il Parma col Marsiglia. Il Parma vince col Marsiglia. Parma vince la Coppa, ha vinto quella Coppa delle Coppe il Parma, mi sa. Può essere che mi sbaglio. Vabbè, adesso controlleremo anche perché siamo veloci e abbiamo poco tempo. C'è giusto lo spazio. Ha ragione. Vedi che ricordavo bene, perché mi piaceva Minotti come giocatore, quindi mi ricordo un gran gol della mano, un grande Parma quello là, contro l'Anversa, contro un grande Anversa. Disse 3-1 quella partita. Beh, bravo Simone, ti sei andato a ricordare. Adesso c'hai qualche minuto per dire e caricare la samba. Hai detto che comunque c'è un collegamento tra Caffè Paglia e questi nuovi risultati della San Benedettese. Certo, perché trafficando sui social, sui canali social, ci auguravamo, in quel caso l'ho scritto io, ma a nome dello staff, un centrocampo che ci sembrava stava andando tutto male. Non so se vi ricordate, non vincevamo da 12 partite, si è vinto intanto a Forlì 2-0 con i nuovi innesti, soprattutto Stoppa che fa gol e assist, arriva in prestito dal Catania. Abbiamo sfanculato l'intera campagna estiva di rinforzo, e questo comunque deve rimanere, perché poi quando vai a fare a fine anno tiri le somme, tu al direttore devi dire ok, sei stato bravo a riparare, però vuol dire che tutti i soldi spesi in estate sono andati in prestito, oppure presimo con Sbaffo c'è stata risoluzione consensuale del contratto, nome pesante quello di Sbaffo, quello non c'ha. Però arrivano Stoppa, arrivano Lepre in difesa, arriva Parigini, cioè campagna di rinforzo fatta con giocatori già di categoria, e si vede subito, si vince a Forlì, finalmente un po' di entusiasmo. Il centrocampo è esattamente quello che appunto indicavamo su un canale social, cioè Tosi, Candellori, Piccoli, Bongelli. Si passa dal 3-5-2 ad un 4-4-2 con Stoppa, diciamo così, che va ad appoggiare il capitano Sepi, che presto probabilmente, visto che abbiamo anche ripreso Leonardo che avevamo dato all'Atalanta, vi ricordavate, ok? E c'è in atto una trasformazione della squadra, più cosciente, più talento innanzitutto a disposizione della squadra. Siamo sempre a 3 punti dai play-out e a 4 dai play-off, quindi Mingo, navighiamo ancora belli tranquilli. Sembra che però finalmente ci sia stato uno step proprio nella percezione di se stessi, non so se mi spiego. Hai sostituito dei giocatori che effettivamente non si sono rivelati adatti, perlomeno alcuni non ancora, con giocatori che già masticavano insomma la materia della Serie C, del professionismo, e si riparte dopo 4 mesi quasi senza vittoria, bella trasferta fuori casa a Forlì. Adesso la prossima arriverà, credo, contro la Pianese. Contro la Pianese, che è settima in classifica, però insomma bisognerebbe continuare la striscia positiva per arrivare ai primi, per avvicinarsi così lontano il Carpi, che sarà l'avversaria successiva, quindi vi giocate le possibilità dei playoff. E sono vestiti di biancorosso pure loro, quindi speriamo bene. Raga, mi raccomando, segnatevi i nomi di Bongelli a centrocampo, può fare un po' di minchiate, ok, perché è ancora giovane, ma è davvero un bel giocatore. 31 di gennaio alle 17:30 a Carpi, trasferta comoda. Il regista vorrebbe andare. Allora, te lo giuro, se non sono di turno al lavoro, perché può darsi, andiamo. Bene, così ci racconterete da vicino. Nel mio bizzarro sabato pomeriggio Sky decide che a un certo punto io debba guardare la Serie C girone B e mi propone Guidoni a Livorno. Il Guidoni ha un'idea di calcio, pur prendendo 2 gol praticamente fotocopia dal Livorno, quindi vittoria esterna 2-0 degli Amaranto. Divertente il siparietto social, perché i fascistissimi tifosi del Guidonia espongono un grande striscione livornese, ti aspettiamo a braccia tese, e poi prendono subito, se volano 2 schiaffi ne pigliano 4, è la vita, è così. Sì, questa è la situazione. Bene, abbiamo chiuso, ultima parte fra poco, prima la pubblicità. Dicevamo, ultima parte di questa trasmissione dedicata al fritto misto di sport, c'è da parlare almeno di cose positive dal mondo del basket, almeno Bologna qualcosa di buono in questo fine settimana l'ha fatta, 2 vittorie su 2 per le squadre di basket, la Virtus che sta prendendo forma veramente in maniera interessante e ha ancora buone speranze di entrare addirittura nei playoff di Eurolega dopo la vittoria con Dubai, in cui Niang ha esploso 17 punti e 17 rimbalzi. Anzi, insomma, per un giocatore che non è sicuramente un lunghissimo, è un risultato importante. Virtus, che comunque è nettamente prima, è prima anche nel campionato, insomma, quindi ha buone possibilità di arrivare alla finale. Vedremo quello che accadrà. È un campionato che è ufficialmente zoppo, perché Trapani è stata esclusa dopo queste vicissitudini delle settimane. Lo stavamo un po' seguendo, però era evidente che questo fosse il finale del campionato di Trapani, sarebbe stato quello. Sarebbe interessante capire se, visto che Antonini ha detto che andrà al TAR, farà corte europea, se dovesse avere ragione lui sarà un bel marone. La Lega Spaziale, questo è un delinquente per davvero, guarda. Sì, però a parole lui dice di essere, cioè si sente tranquillo e dice vado e faccio, vincerò tutto io. Metti caso, sarebbe una bella sorpresa. Sarebbe curioso, anche perché è stato ricordato con molto affetto anche al Palladozza, dove giocava la Fortitudo, che ha vinto anche lei. Esatto, sì, vittoria contro Mestre, se non sbaglio, in un campionato che comunque è bello intenso. La Fortitudo in questo momento è nona e sarebbe l'ideale arrivare ai settimi per farne una in meno, giocarne una in meno, sì, un turno in meno dei playoff lunghissimi della 2. In questo momento credo sia Pesaro in vetta, la prima va su direttamente, se la gioca anche Brindisi e Verona, direi che sono quelle le squadre che possono ambire a andare su in maniera diretta. È ovvio che sarà un lungo playoff quello della 2, e con un mercato che può essere aperto praticamente fino al giorno prima, è un livello che mi sembra abbastanza equilibrato, diciamo così, nella 2. Un cambio arrivato prima dei playoff può far cambiare il risultato di qualunque squadra. Anche perché chi è solvibile può andare a fare la spesa a Trapani, tra l'altro. A parte Trapani, esatto, è una di quelle che già in parte sono stati distribuiti, quindi questo vedremo. In particolare per la 2, dove appunto l'equilibrio è alto, è ovvio che chi ha qualche soldino da spendere potrebbe metterli poco prima dei playoff per cambiare anche un po' il risultato di questo questi playoff lunghissimi, quindi insomma sarà comunque complesso andarli a vedere. Per quanto riguarda però lo sport americano, oltre all'NBA che comunque si avvicina alla metà, il girone d'andata, siamo a 43 partite giocate, quindi abbiamo appena superato il girone d'andata di una lunga serie da 82, con pochi scossoni, diciamo così, sempre Oklahoma in vetta in tutta la NBA, in particolare a Ovest, comunque qualche sconfitta in più dell'inizio. L'inizio sembrava una macchina perfetta, invece adesso è 35 vinte, 8 perse. Detroit, che è la seconda, diciamo così, come percentuale di vittorie, ed è prima a Est, ha 30 vinte, 10 perse, quindi non così lontano da Oklahoma. Oklahoma che punta a fare il back to back, sappiamo che è da un po' di anni che nessuno riesce a farlo, vedremo se sarà. Il problema è che in questo momento ovviamente lo sport americano per eccellenza è ovviamente il football americano, che è nel pieno del playoff, e quindi insomma nel suo mese, perché gennaio è il mese, le sue settimane, queste sono proprio le sue settimane, e siamo arrivati a giocarsi le due finali di conference, e se non sbaglio nessuna delle vostre squadre, delle nostre squadre diciamo così, è ancora in corsa. No, evitata all'ultimo la possibile rissa, anzi direi quasi sicura rissa, perlomeno da parte mia sarebbe stata sicura una rissa con l'amico Fio qua, perché sia i Bills suoi che i nostri Niners sono a casa. A casa, guarderanno. Sono a casa eliminati, i Niners se ne prendono tanti, insieme da Seahawks, finisce 41-6, era nei pronostici la vittoria di Seattle, magari non così larga, però loro difesa. La difesa di Seattle clamorosa, quest'anno è stata il marchio di fabbrica, diciamo così, anche lì come in quasi tutti gli sport alla fine. Soprattutto nella NFL. Però nella NFL ancora di più, la difesa è quella che non fa fare punti agli avversari, e quindi insomma diventa molto... Loro dicono l'attacco vende i biglietti, le difese vingono le partite. Sì, è una cosa che più o meno... Abbiamo i championship. Allora andiamo a vedere quali sono le due semifinali, diciamo così, che porteranno le vincitrici a disputare il Super Bowl. Per la NFC abbiamo i Rams di Los Angeles, secondo appunto i Seattle Seahawks. Chi tifi, chi non si tifa, per chi come noi ha vissuto gli anni 90, l'epopea di Seattle, sai, l'occhietto di simpatia verso i Seahawks. Sì, non c'è neanche più la squadra NBA. Non me lo ricordare, però si vocifera che probabilmente la NBA è in espansione, quindi adesso vediamo. Quindi si tifa per la squadra, per la città, che è di Natale, ha tanti amori musicali qua, insomma, ben rappresentati. Di là nell'FC ci sono due ritorni quasi incredibili. Due squadre che comunque sono state per anni le perdenti. Cioè le squadre che hanno perso tanti Super Bowl, sto parlando degli anni 80-90, inizio degli anni 80-90, erano le due squadre che arrivavano in finale da quella parte lì e perdevano di solito, un po' con i San Francisco e con altre squadre, perché stiamo parlando di New England contro Denver. Incredibile questa, cioè incredibile, nel senso che i Patriots venivano da 20 anni di Tom Brady, quindi da 20 anni in cui hanno esageratamente vinto, e quindi noi pensiamo di rivederli nei piani alti non prestissimo, e invece questi qui indovinano la ricostruzione, sono di nuovo in finale dell'AFC giocando da Dio, poi tra le altre cose eliminando credo la difesa più forte del campionato, che era Houston, se non credo male. Hanno trovato in Drake Maye un altro quarterback della Madonna, questi qua sono bravi a trovare i quarterback a quanto pare. Come l'hanno trovato? L'hanno acquistato gli scambi draft, oppure dal draft? Se non mi ricordo male è draft, ma non mi ricordo se c'è uno scambio dietro, perché insomma, è passato un po', però raga, sono tornati a essere Patriots belli, forti, con un quarterback è molto forte, soprattutto perché è molto lucente, è molto vistosa, una caratteristica che hanno soltanto i quarterback davvero bravi, cioè questo non ha paura di andare per vie centrali, va sempre nel middle come dicono loro, che per un quarterback è sempre la scelta più difficile, perché è quella più trafficata dai difensori, sono migliaia di mani che sbucano, lui invece ci va a nozze ed è veramente un gran quarterback. E contro i Broncos, che invece a questo punto insieme ai Seahawks basano tutto su una difesa feroce, il loro quarterback titolare purtroppo per lui Nix si è spaccato la caviglia nell'ultima azione di ieri, quindi salta il championship. Attenzione, senza il quarterback, quindi insomma che non è detto che sia una cosa sfavorevole, perché tipo gli Eagles recentemente, meno di 5-6 anni fa, vinsero il Super Bowl arrivando tipo al Championship a inizio playoff con Carson Wentz titolare che si fa male, entra Nick Foles che fa dei playoff fuori dalla realtà e alla fine vinsero il Super Bowl, quindi vediamo. È anche vero, appunto, che anche i secondi quarterback sono forti, ecco, nelle squadre di punta. Occhio di Denver, che hanno giocato veramente i jolly, hanno fatto, allora, Buffalo ha questo tema del blackout totale, fa un secondo quarto in cui prende un parziale di 17-3 nella sfida con i Denver, poi com'è nel DNA di Buffalo, ci si fa un gran culo per arrivare ai supplementari e perdere. Questo è quello che è successo. Denver ha una buona stella lassù, diciamo. È un gran peccato, perché di nuovo Josh Allen non riesce ad arrivare al Super Bowl. Comincia a essere un po'. È vero che fino adesso aveva incocciato contro i Chiefs di Patrick Mahomes, di Andy Reid, ok. Però ieri fa pure un paio di minchiate lui, perde un fumble mentre è in piena corsa, un paio di forzature, sempre un giocatore commovente, però sembrano mancargli sempre un qualcosina per arrivare. Vediamo come andrà in futuro. Sono due bellissime finali, secondo me. Due bellissime finali, entrambe in cui c'è una squadra un po' più forte in difesa e una squadra un po' più forte in attacco. Esattamente, i Rams e i Patriots sono più performanti a livello offensivo, Seahawks e Broncos sono molto solidi a livello difensivo. Il quarterback è più bravo, probabilmente, sicuramente, è Stafford dei Los Angeles Rams, che è categoria elite quarterback, già vincitore di un anello sempre con Los Angeles. Sono due belle file. Quella che vorrei vedere, Seattle New England. Cioè, Seattle, il Super Bowl che vorrei vedere è Seattle New England. Seattle New England con appunto con un po' di favore per i Seattle Seahawks. Gli vogliamo bene a Seattle, dai. Sì, poi gli altri hanno già vinto abbastanza. Anche Seattle ha vinto nel passato recente, quando avevano la Legion of Boom in difesa con Russell Wilson quarterback, però ha vinto meno rispetto ai Patriots di Brady, insomma. Esatto, più sentiti. Poi vedremo, perché poi le partite si giocano ovviamente quando sono finali, in uno sport così di contatto fisico si gioca molto anche sull'eventuale infortunio, sul placcaggio fatto in un certo modo. Sono partite un po' di scacchi, no? Per chi conosce poco il football americano, in realtà sono tutte movimenti che fanno studiati proprio al passo. Ogni giocatore deve fare un passo in una direzione o nell'altro, perché muovendosi così si sta muovendo la squadra. Sì, sì, è uno sport assolutamente super codificato, e se uno non lo sa non riesce proprio a capire il senso di tutto quello che c'è. In effetti ha alcune cose particolari, il fatto che inizia l'azione e si ferma, c'è sempre una pausa, non c'è un gioco in continuità. Quella è la grande differenza con il rugby, no? Che si gioca con la palla ovale, ed è forse una delle poche cose, una delle poche cose che hai in comune, perché in realtà tutto il resto è completamente diverso. Non si ferma mai, il rugby è sempre giocabile, quello è tutto spezzettato, però appunto ha tutto quello che è la tattica del movimento delle truppe, quasi un gioco di, insomma, è un gioco di guerra, di ruolo di guerra. Esattamente sì, e credo che la grandezza di questo sport sia proprio questo, cioè in realtà è un'incredibile partita, lezione di tattica, ma proprio incredibile, come hai detto tu, è macro la tattica nel football americano, perché calcolano lo start, che è il pallone che arriva in mano al quarterback, e da lì in poi il quarterback ha in testa tipo quattro situazioni di gioco. Se la prima vede che non si libera il wide receiver che aveva calcolato essere la prima scelta, va sulla seconda. Se però il difensore non ha fatto il movimento giusto per aprire il varco, magari non può andare perché nel frattempo la safety è arrivata. Cioè è tutta tattica, che però poi nel lato pratico esplode in un atletismo clamoroso, perché gli atleti della NFL non hanno pari per gli esploit di velocità, potenza, acrobazia, e quindi è questo mix di tattica fatta con dei flick atletici incredibili che lo rende davvero fantastico. È in questo momento giocato appunto nei playoff, è il massimo della possibilità, no? In questo momento appunto la strategia è su ogni singola cosa, ogni battuta, la speranza è di trovare partite, adesso a parte non avendo il tifo, partite equilibrate, questo è il concetto, perché quando ce n'è una che è troppo più forte dell'altra, anche la partita stessa perde di interesse, anche perché il Super Bowl dura tipo 5 ore compreso lo spettacolo. Se tu mi fai avere 5 ore di un massacro, alla seconda ora io ho cucinato il messicano, poi vado. Si può già andare a letto, poi questa è la situazione. Lo speriamo. Dove sarà il Super Bowl? Bene. A Santa Clara, se non mi sbaglio. Sì? Ce l'avevamo in casa, meglio così. sarà lì e vedremo appunto chi ci sarà. Per quanto riguarda, manca solo il prossimo fine settimana, dovrebbero esserci le finali di conference e terminare questa parte. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo, è iniziato l'Australian Open, un po' di tennis, vuoi mettere un po' di tennis all'interno del programma? Siamo i campioni mondiali del mondo del mondiale. Qualsiasi cosa ormai nel tennis. Cioè siamo un po' di volley, un po' di pallavolo, un po' di tennis, dovremmo più o meno reinserirle. È iniziato l'Australian Open, che parte con Sinner vincitore, campione uscente, diciamo così, e quindi per le regole della classifica dell'ATP deve rivincere per avere gli stessi punti, cioè non potrà guadagnare punti in questa situazione. Volevi aggiungere qualcosa? No, piuttosto ero incuriosito dalla presentazione della Red Bull, che presenta un progetto rivoluzionario, incredibilmente rivoluzionario, perché per la prima volta nella storia della Formula, da quello, Fio, correggimi se ho capito bene la questione tecnica, schiera 4 macchine invece di 2. Perché ieri ho visto la presentazione e un attimino mi si sono incrociati gli occhi, perché c'erano queste due Red Bull blu bellissime e poi ce n'erano altre due però blu, però un po' sporcate di bianco, quindi non ho capito bene. Fatto sta che per la prima volta in vita mia ho visto un team schierare 4 automobili, naturalmente. Vediamo cosa ci racconta Fio. Adesso questo è tutto quello che hai visto ed è chiaro, non voglio pensare che tu avessi adesso bevuto, ecco, in quel momento e vedevi doppio, ecco, non credo, però ci sarà un motivo. Allora, praticamente Racing Bull e Red Bull hanno fatto macchine... Sbagliare. Quello è il film con De Niro, ti stai sbagliando, fidati, si sta sbagliando, quello è un film con De Niro bellissimo. Toro scatenato, Jake LaMotta. No, in realtà le due macchine si assomigliano veramente tantissimo. La livrea un po' più bianca ci ricorda che una è una Racing Bulls e l'altra è la Red Bull. Ah, ok. Presentazione fatta a Detroit per capitali pesanti arrivati da Motown. Impressione. Sì, allora un po' ne avete parlato probabilmente la settimana scorsa della nuova stagione. Ho rivisto il mio ingegnere della Ferrari e insomma è tornato libero, adesso inizia a ragionare, lo vedo più tranquillo dell'anno scorso, quindi può esserci cose positive. Ci sono un po' di novità, un po' di case, anche di nomi importanti che entrano nel circus della Formula 1. È un modo per aumentare anche la qualità, è una sicurezza che ci sarà anche un po' più qualità media, ma è tutto nuovo. Il primo, credo che nella prima stagione, con tutto così tanto diverso, si troverà o le prestazioni o l'affidabilità, e secondo me fai meglio a cercare prima l'affidabilità, visto che è tutto nuovo e tutto diverso. Ci sono i capitali di Ford, che è comunque la storia dell'automobilismo, e tra l'altro come motorista in Formula 1 ha vinto mondiali con chiunque, cioè tutti i team che vi vengono in mente tranne la Ferrari hanno avuto almeno un giorno dell'anno motore Ford su una loro monoposto. Ricordo proprio il nome Ford Cosworth, vinceva su un Ford Cosworth. Sì, in una delle tante Golden Age della Formula 1, quando la varietà tecnica era molto più ampia di adesso, la Ferrari aveva il 12 cilindri, moltissime scuderie avevano il V8 Cosworth perché economico e di facile installazione, cioè potevi disegnare al tecnigrafo la macchina come si faceva nel Novecento, e sapendo che lo spazio per il V8 Cosworth è quello e lo fai lavorare in quel modo e lui c'è e va sempre leggero, piccolo, non prestazionale come i grossi motori degli altri, ma su alcuni tracciati e su alcuni progetti particolarmente ben riusciti ha dato grandi soddisfazioni. Il primo mondiale di Schumacher sulla Benetton è con un V8 forte. I primi due. E ricordiamo che tutti i team hanno vinto con motore Ford, tranne Ferrari, solo perché Ford non riuscì a comprare Ferrari all'epoca dei fatti. Voleva comprare la Ferrari. L'aveva praticamente comprata, intervenì la famiglia Agnelli su spifferi di un paio di giornalisti e quindi Fiat rilevò Ferrari. Cioè, hanno fatto anche film su questa faccenda qua. Che dire, adesso al di là degli scherzi, questa storia del progetto parallelo tecnico gemello non lo amo. Ok. Come la squadra B, un po' come la Next Gen. Sì, che però partecipa nel tuo stesso campionato. In senso, ok. Ferrari, sperando sempre che finalmente abbiano azzeccato il progetto. Ho letto l'intervista del capoccia di Audi, gruppo che entra quest'anno in Formula 1 con una macchina dalla grafica molto bella al momento, senza ancora il main sponsor, che dovrebbe essere Revolute, se non ho capito male. È proprio uno dei capoccia del design, del marketing Audi, contestava l'accordo tra Ferrari e HP, perché lui dice che come ti è venuto in mente di mettere il blu con il rosso? Allora, innanzitutto, amico mio, non hai capito un cazzo, che il rosso e il blu sono i colori più belli possibili, immaginabili, però ammetto che la realizzazione grafica della Ferrari con HP è da rivedere un pochettino, okay? Sì. Adesso per alleggerire un po', bisogna capire in Ferrari se hanno capito cosa c'è che non va a livello di proprio progettazione, perché è ovvio che hanno completamente fallato il progetto del 2025, che comunque partiva dall'auto vice campione del mondo in carica di 3 punti, perché qua adesso non ridiamo, scherziamo, ma la Ferrari usciva dal 2024 quasi da campione mondiale costruttori, quindi è ancora inspiegabile come abbia fatto a dilapidare, insomma, un bel vantaggio tecnico. Speriamo, e male che va, possono schierare, secondo me, la F80, che a quanto pare sia un'auto veramente eccezionale, Vivo. Quindi magari ci metti lo sponsor HP sopra e se la caveranno così. Se la cavano così, potrebbe essere. Io abbiamo pochi secondi prima di lasciare lo spazio all'informazione di Popolare Network. Un po' di anni fa, una decina, quindicina di anni fa, c'era gli Stati Uniti non seguivano tanto la Formula 1 perché investivano molto sulla Formula Indy, che era una roba diversa, ovviamente era Formula 1, ma aveva un suo senso, un suo campionato, ovviamente era un campionato americano, forse al Canada, ecco, giusto a Città del Messico, diciamo, questo poteva essere l'area che si vedeva. Il fatto che gli americani stiano investendo invece in Formula 1 ci racconta che un po' la Formula Indy sta calando? Ci racconta che hanno bisogno di un mercato globale, perché il mercato interno è trascinato dai truck, dai pick up, dai furgoncini che qui hanno gli artigiani, mentre invece sono molto popolari e classificati proprio come un altro tipo di veicolo negli Stati Uniti, e hanno bisogno di vendere le macchine lontano da casa, perché okay, in casa non le vendono più. Bene, e questo è. Allora, si interessano alla Formula 1. Un saluto a tutti, ci risentiamo la prossima settimana. Dai, ciao.